Italia in controluce. Oggi è il 14 febbraio e si parte con la nuova settimana di Italia in controluce. Buongiorno a tutti e buona mattina da Daniele Biacchisi. La prima traccia è girata tra i banchi di scuola. Piera Ceci. Scuola in controluce. Ha fatto cadere più di un ministro, ha portato sempre migliaia di persone in piazza. Valutazione degli insegnanti, un argomento delicatissimo nel mondo della scuola. Eppure qualcosa sta da fare. Se per la riforma Brunetta, che prevede la valutazione degli insegnanti come per tutti gli altri lavoratori del pubblico impiego, è tutto rimandato al prossimo contratto del 2013, almeno la sperimentazione può partire, anche se la maggior parte delle scuole ha detto no. 35-40 istituti alla fine hanno detto sì, a Torino, Napoli e Milano. In palio una mensilità lorda in più per gli insegnanti più bravi. Fra queste, la direzione didattica 87 Don Guanella di Napoli, come ci racconta l'insegnante Maria Esposito. Previsione di un'eventuale riforma che ci piove dall'alto prossimamente, allora vogliamo capire di che cosa si tratta, cioè dire di no subito a priori per partito preso ci è sembrato un po' eccessivo, allora è quasi un sì provocatorio, speriamo di dimostrare che sarà una premialità data non come premialità, come premio al merito, ma come gradimento, come simpatia. Cioè noi non ci crediamo affatto, che sia ben chiaro, noi che lavoriamo da anni, ci sono insegnanti in questa scuola da 20 anni, meriteremo un premio soltanto per lavorare in questa zona, in queste zone, in questi... Le assicuro che non è la stessa cosa essere docente a Scampia ed essere docente a Posillipo, zona bene di Napoli. Sì, con riserva dunque dall'Istituto Don Guanella di Napoli, no netto invece dall'ITIS Feltrinelli di Milano. La preside Anna Maria Indinimeo. Io personalmente sono convintissima che la valutazione sia una parte essenziale di qualunque processo, non si deve avere paura della valutazione, è meglio essere valutati che giudicati. Però mi rendo conto che ci sia da parte degli insegnanti un certo timore, ci sono moltissimi insegnanti che al solo sentirne parlare reagiscono in maniera negativa. Dunque tanti dubbi delle scuole, ma comunque si parte. Giovanni Biondi, capo dipartimento del Ministero della Pubblica Istruzione, se l'aspettava le perplessità incontrate. Diciamo di sì, è un tema questo storicamente in Italia molto, diciamo, controverso, dibattuto. Lei sa che si risale ai tempi di Berlinguer, su questo e del concorsone. Sono caduti i governi, quindi è chiaro che questo è un tema delicato, molto temuto, a volte demonizzato, quindi insomma ci aspettavamo che però abbiamo voluto comunque fare un'operazione di questo genere, invece che individuare, come posso dire, 30 scuole così prese senza coinvolgere, abbiamo fatto un coinvolgimento di tutte le scuole di queste tre città proprio per avviare un dibattito, perché questo è un tema che comunque deve cominciare a diventare realtà nella scuola. Italia in controluce. Paolo Fresu compie 50 anni e quest'estate organizza una straordinaria tournée, pensate, in Sardegna di 50 date. Lo ha intervistato per noi Daniela Binello. Buon compleanno, Paolo Fresu. Sono contento di questi 50 anni. Ci sarà praticamente tutta la Sardegna in festa per il suo compleanno. Beh sì, però abbiamo pensato di fare questa follia. Le follie si fanno forse poche volte nella vita, 50 anni credo che valga la pena, di portare in Sardegna una tournée enorme di 50 concerti che inizieranno il 12 giugno nel mio paese natale, evidentemente Berchida, e si chiuderà poi il 31 luglio a Cagliari. In questi 50 giorni ci saranno non solo 50 concerti di fila, ma soprattutto 50 gruppi diversi, quindi un po' tutti i musicisti che hanno lavorato con me in questi 30 anni di attività. Ne sarà non solo una festa, ma anche la voglia di vedere la Sardegna da un altro punto di vista. Il suo essere sardo, anche se vive fra Bologna e Parigi come abitazioni, ma poi viaggia in tutto il mondo, la segue come un'ombra. Direi di Sì, insomma è difficile scrollarsi di dosso la Sardegna, se non altro perché il posto dove sono nato, poi insomma io sono uno che viene dalla campagna perché la mia famiglia era una famiglia di contadini e di pastori, quindi ho vissuto la mia infanzia nella terra. La prima lingua che ho imparato naturalmente era il sardo, poi l'italiano l'ho imparato a scuola, insomma quindi direi che c'è una, come dire, una tradizione, un attaccamento alle cose così forte che la Sardegna poi immancabilmente bisogna portarsela presso, nel bene e nel male, seppur poi sono un sardo che ama poi condividere naturalmente questa che io chiamo ricchezza con il mondo. Penso che al giorno d'oggi, soprattutto in un momento storico in cui si tende a livellare tutto, parliamo tutti uguali, mangiamo tutte le stesse cose, vestiamo tutti nello stesso modo, avere una diversità qual è quella dell'essere sardi è una cosa bella perché è semplicemente una ricchezza, purché questa poi naturalmente sia condivisa con gli altri. Lei dimostra una certa voracità, se mi passa il termine, per la vita e ha anche detto qualche volta: mi piace l'idea di invadere gli spazi, inteso ad esempio come organizzare concerti sui monti, sulle Dolomiti, in posti abbastanza anche difficili da raggiungere. Questa è un po' una sfida per certi versi, una sfida personale, perché il capovolgere il concetto fruitivo della musica, dunque non il teatro tradizionale, quindi non il teatro in cui c'è un pubblico seduto in sala, magari come dire una poltrona anche estremamente comoda, perché no, certo. Io credo che il successo di un concerto non sia solamente nella capacità dell'artista, ma si decreta il successo di un concerto da una serie di cose che sono naturalmente il pubblico, che è fondamentale, ma anche il luogo stesso dove il concerto poi viene accolto, perché il luogo comunque suona con la musica, e portare dei concerti anche nei luoghi più naturali penso che sia anche un segnale bello, non solo dal punto di vista estetico, ma anche proprio per far riflettere la gente sulle tematiche ambientali. Italia in Controluce termina qui, ci risentiamo oggi alle 13.30 naturalmente su Radio 24.